GR24, il sole 24 ore. Valanga sul Monte Bianco, sala 9, il numero delle vittime, si cercano ancora altri dispersi. L'allarme di BCE industriali su pile occupazione, bene intanto l'asta dei bot. Bufale su Twitter di Pietro Gravi in ospedale, lui replica: sto benissimo. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati e cominciamo subito dagli aggiornamenti sulla valanga questa mattina sul Monte Bianco. Poco fa la notizia dell'aggravamento del bilancio, è così Maria Luisa Pezzali? Sì, è così, il bilancio delle vittime, lo sentivamo dai titoli, è salito a 9, sono stati infatti recuperati i corpi di altri 3 alpinisti travolti dalla valanga che si è verificata questa mattina all'alba sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, precisamente sul mommo di 4.400 metri di altezza lungo uno dei passaggi della via delle tre montagne. 9 i morti dunque, altrettanti i feriti, mentre si cercano tuttora dei dispersi. Delle prime 6 vittime accertate si conosce la nazionalità, 2 francesi, 2 tedeschi e 2 svizzeri. Di queste ultime 3 al momento non è dato saperlo, probabilmente sono britannici, perché di dispersi britannici si era parlato fino a questo momento. Per la prefettura dell'Alta Savoia si è trattato della valanga più pericolosa e mortale degli ultimi anni, ha travolto diverse cordate di alpinisti trascinandoli per centinaia di metri. A provocarla sarebbe stato il crollo di un seracco dalle pendici del monte. A dare l'allarme poco prima delle 6 di questa mattina uno dei feriti. Nessun bollettino meteo ci aveva avvertito dei rischi di una valanga, ha fatto sapere il sindaco di Chamonix, Eric Fournier. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. È tutto. Grazie a Maria Luisa Pezzali. Siamo all'economia ora invece. Sono diversi gli allarmi arrivati questa mattina da BCE, OCSE e Confindustria. La Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile parla di condizioni ulteriormente peggiorate, aggiungendo peraltro come le indagini non segnalano miglioramenti per il prossimo futuro. L'allarme è soprattutto per l'occupazione, dato questo che fotografa l'OCSE, secondo cui gli occupati sono rimasti stabili nel primo trimestre 2012 rispetto alla fine del 2011, ma dall'inizio della crisi nel 2008 mancano all'appello 2 milioni di posti di lavoro. La buona notizia è invece che il Tesoro ha assegnato tutti i 7 miliardi e mezzo di euro di bot a un anno, registrando un rendimento medio in calo al 2,69% dal 3,97% dell'asta di metà giugno, ma un nuovo allarme di rallentamento della crescita è arrivato da Confindustria. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, rilancio della crescita e dell'occupazione, difficoltà per il prodotto interno lordo del nostro paese. Nelle parole del leader di Confindustria, Giorgio Squinzi, il presidente degli industriali non torna sulla polemica sulla concertazione aperta ieri dal premier Monti. Siamo tutti nella stessa barca, siamo in un momento tempestoso e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, dice Squinzi, che sottolinea tuttavia l'incapacità del paese di tornare alla crescita. Nel 2012, dice Squinzi, segneremo un meno 2,4%, ma anche qualcosa di più. Ma sentiamo allora il presidente di Confindustria. E il nostro paese che non ha materie prime, che ha un costo di energia elevato, che ha un sistema infrastrutturale piuttosto ormai scalcagnato, che ha un sistema fiscale pesantuccio, che ha un costo del lavoro che non è certo tra i più bassi al mondo, non ha altra possibilità che investire sull'unica cosa valida che abbiamo, che è la materia grigia che c'è nella testa dei nostri imprenditori, dei loro collaboratori, in generale di tutti gli italiani. E da questo punto di vista vi assicuro che siamo al top mondiale. Confindustria torna quindi a bocciare la riforma del lavoro, non è soddisfacente, dice Squinzi. Dal governo a tracciare una linea programmatica è oggi intanto il neo ministro dell'economia Grilli. Quanto al PIL ancora non facciamo stime, dice Grilli, mentre sull'IVA aggiunge che questo governo ha come desiderio di evitare del tutto il suo aumento perché non è utile per la nostra economia alzare ulteriormente le imposte. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Migliette. Da aggiungere che poco fa il Senato ha ratificato il trattato sulla stabilità, il cosiddetto Fiscal Compact, deciso a Bruxelles, ora passa alla Camera. Il trattato entrerà in vigore il 1 gennaio dell'anno prossimo, se ratificato da almeno 12 paesi. Restando all'Europa, a chiudere il suo storico stabilimento parigino è intanto la Peugeot. Il gruppo francese PSA Peugeot Citroën chiuderà entro il 2014 la fabbrica di Aulnay alle porte di Parigi e ridurrà l'organico in quella di Rennes. Nel complesso delle misure annunciate stamane dal presidente Philippe Varin, il taglio all'organico in Francia sarà di 8.000 posti di lavoro in tutto. PSA è stata messa alle corde dall'aggravarsi della crisi del mercato dell'auto in Europa, da cui dipende ancora in misura maggiore rispetto ad altri concorrenti. Gli impianti lavorano al 76% della loro capacità. La chiusura di Aulnay e la riduzione dell'organico erano largamente attese, ma rappresentano una bella patata bollente per il presidente socialista François Hollande, sia per il possibile impatto sulla recessione, sia per il fatto che la banlieue parigina di Aulnay è una delle più esplosive dal punto di vista sociale. Lo stabilimento PSA di Aulnay, che nacque come fabbrica Citroën prima della fusione, è il terzo che viene chiuso da un grande costruttore europeo dal 2008, dopo quello Fiat di Termini Imerese e quello della Opel ad Anversa in Belgio. Ma l'ampiezza della crisi, soprattutto nei paesi del sud Europa, fa temere che misure simili possano essere annunciate anche da altri costruttori. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non chiude ma passa di mano intanto uno storico marchio italiano, il gruppo Valentino, che finisce in Qatar. L'acquisizione riguarda l'intera partecipazione di Valentino Fashion Group, detenuta dal gruppo Permir e dalla famiglia Marzotto da parte della società Maihola, che acquisisce così il controllo di Valentino e anche della licenza Missoni. Il prezzo dell'operazione non è stato reso noto, ma secondo indiscrezioni sarebbe sopra i 700 milioni di euro. Dietro la società che ha acquisito lo storico marchio italiano ci sarebbero i reali del Qatar. Un anno di reclusione, 500.000 euro di multa e la richiesta di condanna arrivata questa mattina al Tribunale di Milano per il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni è accusato di diffamazione a mezzo stampa. Secondo l'imputazione avrebbe accusato i radicali di aver manipolato le firme che erano state raccolte a sostegno della sua lista per le regionali del 2010, vicenda sulla quale è aperta un'altra inchiesta. L'imprenditore Gianmario Rossignolo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza all'alba nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Torino. Superati i 70 anni resta ai domiciliari, ma dietro la storica di Tommaso di Grugliasco, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno, ci sarebbe stata nascosta una truffa, spiega il generale della Guardia di Finanza Giuseppe Gerli. Corsi di formazione mai fatti. Dovevano essere riconvertite circa 1.100 persone e per questo c'era un progetto di formazione che sfiorava i 20 milioni di euro, di cui 7 milioni e mezzo erano stati già percepiti. Sicuramente non sono state utilizzate per i corsi, una parte sono state utilizzate per pagare alcuni fornitori aziendali, una parte sono finiti nella disponibilità della famiglia Rossignolo e di alcuni manager. Era una bufala la notizia circolata su Twitter e rilanciata da un quotidiano sardo, secondo cui Antonio Di Pietro sarebbe stato colpito da un attacco ischemico durante una vacanza in Sardegna. Così ha risposto lui questa mattina ai nostri microfoni. Grazie a Dio, sto benissimo. Sono a Roma, grazie a Dio, nonostante tanto lavoro e tanta fatica, ma che il Signore continua ad assistere la mia salute che vuole assistere finora. Abbiamo fatto due giorni di riposo, unendo l'utile al dilettevole, perché in realtà sono andato prima a fare un paio di manifestazioni con il partito, questo il venerdì e il sabato mattina, poi già che c'eravamo abbiamo approfittato, ci hanno fatto vedere questo splendido posto che si chiama Tavolara e questa splendida ospitalità del popolo sardo che ha fatto molto felice mia moglie. Resta la domanda: quanto possiamo fidarci di Twitter e della comunicazione sul web? Un commento dal sociologo Guido Martinotti. The democracy is stupid, no? Cioè quando tu hai un'informazione totalmente democratica invece di una piramidale dove ci sono dei controlli, e nella comunicazione totalmente democratica come Twitter, che è carino per quello, insomma, ognuno dice quello che vuole, vale la regola, caveat emptor, cioè se l'acquirente non è minimamente sospettoso, si fa lui stesso, diciamo, eco e promotore e ingigantitore di una notizia che non è controllata. E si chiama two-way flow of communication, cioè la comunicazione viene sempre rispedita da qualche ritrasmettitore, il quale ritrasmettitore ottiene una sorta di vantaggio dal essere riconosciuto come persona in possesso di un'informazione autorevole, no? Questo è il meccanismo. a poco si svilupperà, come dire, un'utenza più responsabile dal punto di vista di quelli che, insomma, non vogliono proprio farsi prendere in giro al 100%, ecco. Un italiano su quattro ha acquistato prodotti alimentari provenienti dalle zone terremotate dell'Emilia e della Lombardia. La stima è della Coldiretti, che oggi ha inaugurato a Bologna il primo mercato delle aziende colpite dal sisma. Si chiama Spesa Salva Aziende, è un modo per aiutare concretamente le imprese agricole colpite dal terremoto. Così a Bologna oggi non si compravano solo meloni, pesche, miele e latticini, ma si aiutavano gli agricoltori a ripartire, ognuno con la propria storia da raccontare. Che abbiamo i magazzini inutilizzabili, purtroppo anche il lavoro e gli operai non possono entrare nei magazzini, ma dobbiamo far tutto sotto il sole, che adesso è 40 gradi. Abbiamo un garden center di 5.000 metri quadrati coperti, ci sono ribaltate tutti gli oggetti che si trovavano all'interno, diverse migliaia di euro di danno. È molto bello questa iniziativa, perché la gente, insomma, vedo che aiuta. Secondo le stime della Coldiretti, il terremoto ha causato all'agricoltura danni per 705 milioni di euro. In cima alla lista dei prodotti più colpiti il parmigiano reggiano, con danni intorno ai 150, seguito dal grana padano, 70 milioni di euro, e dall'aceto balsamico, 15 milioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio e quello che sta diventando il tormentone Milan. Buongiorno Dario Ricci. Sì, buongiorno. Decisive le prossime 48 ore per quello che potrebbe essere l'affare dell'anno e non solo. Il Paris Saint-Germain della coppia Ancelotti-Leonardo offrirebbe 62 milioni per il doppio colpo per portarsi via dal Milan Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva. Altri 108 milioni di euro sarebbero quelli che il diavolo risparmierebbe sugli ingaggi dei due campionissimi. Mino Raiola, l'agente di Zlatan Ibrahimovic, è volato in Svezia per provare a convincere il bomber ad accettare il trasferimento, e a queste cifre non dovrebbe essere un problema. C'è poi Thiago Silva, per il quale è sempre valido il vecchio accordo che, lo ricordiamo, era già stato trovato col Paris Saint-Germain prima del no alla cessione pronunciato dal patron Berlusconi in persona. Al tempo stesso Galliani è rimasto a Milano ma continua a tenersi in contatto con Leonardo in Francia. Insomma, bisogna lasciar passare le ore per vedere se questo accordo si farà, ma tutto sembra far pensare di sì. E occhio al Paris Saint-Germain che sta nascendo, perché i parigini si candidano ad una stagione da grandi protagonisti in Francia, ma soprattutto in Europa. Grazie Dario Ricci. In regia Paolo Corleoni, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.